puoi mettere una mandata d'eco. Che non fanno un cazzo tutto il giorno. Alza un po' il basso, solo in spia, basso. cosa lì, dov'è il monitor? Alza. Oh, no, so. Oh, piano, piano, fa poi andiamo via, Dai, venite tutti qua sotto, è sempre un po' fuori. Il prossimo pezzo lo conoscete tutti, è stato già tratto da l'EP che hanno fatto tempo fa, i Rof, quando ancora cantava Piero, si intitola Riot in the Street. Ragazzi, scegliete noi, non politica tra di noi. Ok, l'ultimo pezzo, sputtana la nostra città. Città di merda. Torino è la mia città. Ciao!